Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Ieri sembrava essere quello nel senso di pomeriggio di Pastore, invece poi è diventato quello di Pazzini, ma anche di Cavani. Si capisce che è arrivato a quota 17 gol. Pensate che 17 gol in campionato, un centravanti o comunque una prima punta del Napoli, è successo rare volte nella storia, ma complessivamente contando tutte le marcature di stagione, per cui Wojak nel 33 ha segnato 22 gol. Queste sono le statistiche di Franco Piantanida. Vinicio nel 58 21 reti, Jepson nel 54 20, Careca nell'89 19. Cavani si insedia subito dietro a questi quattro a quota 17, ma avendo ancora quasi mezzo campionato da giocare, e comunque ha già scavalcato gente come Altafini, come Fonseca, come Beppe Savoldi, che al massimo, come Maradona, che al massimo arrivarono a 16 gol in una stessa stagione con la maglia del Napoli. Poi è vero che si giocava a meno giornate, è vero che erano anche epoche, soprattutto quelle di Maradona, di Careca, di Altafini, in cui si giocava ancora anche in difesa e non soltanto all'attacco, e non si vedevano ogni domenica le nefandezze che invece sono diventate abituali nelle aree di rigore da parte di chi difende, anche da parte di grandi squadre come ieri l'Inter, per esempio. Però è vero anche che con 17 gol in campionato Cavani è arrivato a questo punto. E allora, visto che il Napoli al momento, complici anche i recuperi che ancora Inter e Roma devono sostenere, l'Inter il recupero storico ormai di Firenze e da ieri anche quello della Roma a Bologna, è il Napoli attualmente il vero anti-Milan, e allora sentiamo per cominciare proprio Cavani, il nuovo capocannoniere. Molto bello, perché veramente uno lavora tanto per raggiungere delle cose importanti, per ottenere dei frutti, quindi diciamo che vedere questi frutti è una sensazione molto bella. Veramente prima di tutto pensiamo sempre, diciamo, nella squadra, anche se gli attaccanti ogni tanto sono un po' egoisti, perché io credo che già per natura lo devono essere, diciamo che penso più di niente in che la squadra possa andare bene, e dopo io credo che le altre cose arrivano. Noi ci mettiamo limiti, cerchiamo di lavorare ogni giorno, migliorare, prepararci ogni allenamento per la partita successiva, che è quella più importante, e io credo che con quello spirito si può diciamo, arrivare a lottare per qualcosa di importante per questa città e per questa squadra. Problemi di ricezione a Como, segnala Raffaele. Era già arrivato un altro messaggio da Maslianico, insomma dai dintorni, Comaschi. Vediamo di provvedere al più presto. Si è scoperta finalmente la strategia della Juve, ironizza Paolo in un messaggio: indebolire le altre squadre. Ed è difficile non leggere in questo commento il contratto di Legro Taglie firmato stamattina a Milano con il Milan. Il Milan comunica di aver acquisito, cosa di poco fa, a titolo definitivo il calciatore Nicola Legrottaglie, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2011. Dire che di là dal vetro, dove c'è un discreto covo rossonero, ci siano grandi segni di esultanza, sarebbe abbastanza inesatto. Un altro messaggio mi piace. Lori da Milano, a proposito del secondo gol di Pazzini, quello stacco altissimo di testa, scrivere dai tempi di Pulici e di Bettega che non vedeva un attaccante staccare di testa in maniera così imperiosa. Io non so se bisogna risalire davvero a Bettega e Pulici, cioè agli anni 70, ma di sicuro quello stacco di Pazzini ieri altissimo, e poi di quella potenza, è stato veramente una grande prodezza. Vorrei che, scrive Beppe Indelicato, vorrei che lei dedicasse due parole di incoraggiamento al nostro Emiliano Mondonico. Io credo che Emiliano Mondonico non ne abbia bisogno di parole di incoraggiamento, perché il coraggio se l'è sempre saputo fare da solo. Certo, lui sa che tutto il mondo del calcio, e chi, e a maggior ragione chi personalmente lo conosce e lo ha sempre stimato e ha sempre avuto con lui un rapporto, diciamo pure di complicità calcistica, sa che tutti noi siamo al suo fianco in questa battaglia. La seconda voce di oggi arriva ancora da Napoli ed è quella di Mazzarri. La classifica non ci ho mai pensato e non ci penso mai. Penso a allenare meglio possibile i miei giocatori che la società mi mette a disposizione, quest'anno abbiamo avuto il vantaggio di iniziare dopo aver fatto quello che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo messo delle basi solide, un'organizzazione di gioco, dei meccanismi, lo zoccolo duro dei giocatori è rimasto e probabilmente siamo stati in quest'annata avvantaggiati da quello che già di buono avevamo fatto l'anno precedente. La rosa dell'Inter non è confrontabile con la nostra, ma lo sappiamo, quella del Milan uguale, quella della Juve ancora forse un pochino al di sotto delle altre, però se si guarda anche i giocatori che in passato hanno fatto grandissimi livelli, hanno fatto Champions, noi non ce l'abbiamo e gli altri ce l'hanno, la Roma non ne parliamo. Beh, comunque nel reparto avanzato un signor Napoli e trascinati da loro anche gli altri stanno, che sono giocatori più normali, quello degli altri due reparti, stanno acquisendo un po' alla volta personalità, anche convinzione. A Torino ironizza un altro, oggi sono i messaggi ironici, oggi vanno di moda. A Torino scrive Michele da Padova, è tutto pronto per festeggiare il primo anno senza gol di Amauri, che effettivamente timbrò lo scorso anno il giorno di San Valentino, credo, per l'ultima volta. E Galliani come regalo gli ha portato via le grottaglie, anche questa non è malissimo. Pulici, ma forse ci siamo dimenticati di Vieri, insomma risponde indirettamente un altro ascoltatore, beh insomma io credo invece che avesse ragione Lori, gli stacchi di Bettega e di Pulici, direi anche di Pruzzo se parliamo di sospensione, erano ancora più imperiosi. Altre voci in attesa sempre dei vostri interventi in diretta. Beh, se c'è un protagonista di ieri, l'abbiamo detto, Cavani l'abbiamo sentito, adesso andiamo dall'altro che ha lasciato in gramaglie i tifosi della Sampdoria e tra l'altro comincia a diventare un po' difficile adesso individuare il progetto Sampdoria, insomma capire com'è messa questa società, anche questa squadra, no? Perché insomma Cassano era andato in una certa maniera e va bene, perdere Pazzini con senza contropartita o quasi insomma fa sì che quei 27 punti che la Sampdoria oggi ha in classifica non suonino così rassicuranti, anche perché mi pare di capire che c'è un ambiente un po' destabilizzato. Pazzini. Sono entrato con la voglia di aiutare la squadra a vincere questa partita, perché sicuramente anche sul due pari non si è accontentata, ha spinto ancora, c'è da fare i complimenti sicuramente a tutti i compagni. Mi hanno fatto tutti i complimenti, per me è stato un grande piacere, insomma, a tutti i compagni che mi hanno accolto bene, mi hanno fatto tutti i complimenti, sono stato contento di poter dare una mano a loro oggi. Se ne è parlato tanto, ripeto, ci sono rimasto male di qualcosa che ha detto il presidente, però ripeto, io della Sampdoria sicuramente un grandissimo ricordo, ho fatto due anni straordinari, ho conosciuto gente fantastica, quindi sicuramente la Samp rimarrà sempre nel cuore. Problemi di ricezione anche a Trapani segnerà Piero, qualcosina a Padova, si vede che è una giornata un po' difficile anche per ragioni meteorologiche, perché in genere le cose coincidono. Alex da Udine dice sì, ma parliamo anche di Sanchez, ha notato quel doppio pallonetto a Melo sul secondo gol dell'Udinese? Sì, ho notato anche Melo, se per quello, ma certamente il merito, più del demerito di Melo, c'è il merito di Sanchez. Io ho avuto l'impressione nella partita di ieri sera che l'Udinese abbia giocato una delle, non dico delle partite peggiori, ma certamente delle meno brillanti del suo ultimo periodo, a causa anche di un terreno che penalizzava i suoi, o comunque non agevolava i suoi giocolieri davanti, e credo che se non fosse arrivato il gol di Marchisio quella partita sarebbe probabilmente finita 0-0 senza infamie e senza lodi, costretti a provarci di Natale prima e soprattutto Sanchez poi con l'aiuto di Isla e di pochi altri, insomma hanno mostrato, hanno messo a nudo tutta la pochezza anche della difesa della Juventus, non soltanto di altri reparti. Primo intervallo di oggi, strade. Tra meno di 5 ore chiude il mercato di riparazione, per cui poi in teoria da qui a luglio di mercato non si parla più. Dico in teoria perché voi sapete bene che ci sono fior di quotidiani che di questo e soltanto e di trasmissioni televisive che di questo campano anche quando il mercato è chiuso, e quindi parlarne non ha veramente senso. È in corso a Milano, leggo su un'agenzia, un colloquio tra il direttore generale della Juventus Marotta e il presidente del Cagliari Cellino, e l'argomento è il possibile passaggio in extremis di Matri alla Juventus, ma ci sarebbero novità anche per Amauri, secondo questa agenzia, perché all'italo-brasiliano, contestato ormai dai tifosi della Juventus, sarebbero interessati Parma e Palermo. Poi ci sono gli arbitri già designati per le partite di mercoledì, perché sapete che mercoledì è una giornata infrasettimanale di campionato che in realtà comincia già domani sera con l'anticipo Milan-Lazio e si conclude poi giovedì col posticipo Bari-Inter. Qualche altra curiosità di giornata? Beh, intanto la sindrome trasferta di Mihajlovic, mi pare, perché le sue squadre, a cominciare dal Catania prima e adesso dalla Fiorentina, non vincono in trasferta da quasi un anno, era il 7 febbraio 2010, Lazio-Catania 0-1, e da allora Mihajlovic ha infilato 9 pareggi e 10 sconfitte. La Lazio è terza a 40 punti e ormai è a meno 6 dal punteggio 46 punti a cui chiuse l'intero campionato scorso. E Kozak, i 4 gol di Kozak hanno già fruttato 9 punti ai biancocelesti, anche se, parlando di gol che fruttano punti, beh, insomma, mi pare quelli di Ibrahimovic siano i più pesanti in assoluto per la classifica, perché ha segnato 13 gol in 13 partite diverse e quindi i punti che ha portato in dote al Milan sono la bellezza di 16 su 47, diciamo che è un bel 35% di fatturato, se la voglio mettere in questi termini. Antonio ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo parlare degli attaccanti della Juve. Sì. A mio avviso, sono un tifoso della Juve, a mio avviso la Juve dispone di una buona squadra, ma senza grandi attaccanti non ci può essere grandi. Avere Amauri con la media realizzativa di un portiere, dice, se pure quella Cremonese è superiore a lui, penso non si può andare da nessuna parte. E volevo segnalare tra gli acquisti fatti, signor Bonucci, che ieri ha fatto per me una partita splendida, poi macchiata finale da quel gesto improvvido. Vorrei sapere il suo parere. Sì, splendida, insomma, ha fatto una discreta partita, io credo, come tutta la difesa della Juventus, fino a quando non è stata sollecitata, cioè fino a quando l'Udinese, diciamo, pure ha giochicchiato, perché non era in grande serata, perché poi comunque questi cicli vincenti anche di bel calcio e anche di spettacolo, tipo il turno precedente in casa contro l'Inter, poi lasciano delle tracce, ma quando la difesa della Juventus, e quindi Bonucci, e quindi Chiellini, e quindi gli altri, è stata davvero sollecitata dall'Udinese, è andata subito sotto, quindi io, insomma, qualche perplessità ce l'ho. La memoria di Dante da Busto non è male, perché dice che il gol di testa di Pazzini di ieri ha ricordato uno stacco storico di Etley in un famoso derby Milan-Inter in cui anticipò con Lovati, e scrive Dante, non proprio l'ultimo venuto, esatto, quello fu uno stacco storico. Io sono abbastanza convinto che quello di ieri come dinamica resterà nella memoria di chi l'ha visto, perché intanto per la suggestione di un giocatore che ha debuttato da pochi minuti e che arriva già alla doppietta con una prodezza di quel genere, perché era il suo secondo gol, per la varietà dei due gol, perché il primo l'ha segnato davvero da opportunista da area di rigore, no? Con quella torsione tenendo lontano l'avversario con i bracci e riuscendo a rincrociare, e il secondo invece è una cosa di purissima potenza. Sono prodezze indubbiamente interessanti. È interessante anche per chi ama il genere quello che ha detto stamane Zamparini a proposito del suo allenatore. Ha detto: Delio Rossi ama molto la fase offensiva, ma è scarso su quella difensiva. Diciamo che durante la settimana è un grande allenatore. Dopodiché è andato avanti su questa falsa riga e ha infierito, assolvendo ovviamente Pastore, che pure mi pare, tra il palo che ha colpito da 3 metri e il calcio di rigore, abbia assai più colpe di quante non ne abbia Delio Rossi, ma insomma voi sapete che Zamparini in realtà sulla base di questa frase, ama molto la fase offensiva ma è scarso su quella difensiva, diciamo che durante la settimana è un grande allenatore, Forse la formula vincente per il Palermo sarebbe una volta per tutte, e cioè Rossi che allena durante la settimana e Zamparini che fa la formazione e va finalmente in panchina la domenica a guidare la squadra e a stabilire i cambi. Giovanni ha chiamato da Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Garanzini. Niente, io volevo parlare di una cosa molto semplice, il progetto Juve, che non è mai stato un gran progetto, questo noi tifosi l'avevamo già capito in partenza, perché un progetto non può partire da giocatori che non sono da Juve. Un progetto parte da giocatori che sono da Juve, non sono certo i Pepe, i Martinez, quella gente lì. Poi ieri sera, dopo la sconfitta, lui va in televisione e si lamenta che non ha le punte. Ma noi il gol l'avevamo già fatto. Noi ne abbiamo presi due quando l'Udinese ha cominciato a giocare a calcio. Forse se Sissoko faceva entrare prima e magari il centrocampo invece il 4-4-2 lo mette un po' più coperto, visto che non ha le punte, ma almeno riesca a difendersi, forse porta la partita a casa e siamo tutti un po' più contenti noi juventini. Sì, è un'ipotesi, insomma, è una scuola di pensiero. Anch'io prima ho sostenuto la stessa cosa, e cioè che in una Juve palesemente in emergenza come questa, insomma, aver trovato un gol, tra l'altro così bello, con Marchisio, e poi non essere riuscita a difenderlo è un aggravante, perché è vero che a quel punto si è svegliata un po' l'Udinese, ma è vero anche che la difesa era grosso modo quella titolare. Non si può imputare nulla a Buffon. Davanti alla difesa c'erano i giocatori più o meno che ci dovevano essere. Si poteva magari appunto rafforzare con Sissoko, ma questo poi è il senno di poi, perché sappiamo che con Sissoko ci sono fieri problemi di rapporti, no? Sia da parte societaria e credo anche da parte tecnica a questo punto. Una sconfitta avvilente, direi, proprio così, perché comunque non, se c'è un capo di imputazione che non si può elevare alla Juventus è quello dell'impegno, è quello di mettercela tutta anche ieri sera, questo è accaduto, però se mettendocela tutta non riesce a difendere per mezzo tempo circa un vantaggio in casa contro una squadra forte oggettivamente, però non in grande serata, è oggettivamente un brutto segno. Maurizio, Genova, buongiorno. Buonasera signor Garanzini, sono Maurizio, abbiamo già parlato ai tempi di Mourinho. Ascolti, io volevo fare una domanda attraverso la trasmissione al Presidente Garrone, perché non sono ancora riuscito a capire che quale sia diventato da un momento all'altro il progetto della Samp. Dopo aver venduto due punte e aver preso soltanto Maccarone, con tutto il rispetto, un grande giocatore, ma la cui età è praticamente la somma dell'età di Pazzini e di Marilungo, ha incassato dei bei soldi tra Pazzini e Marilungo, dicono 17 milioni di euro, ne ha spesi 3 per Maccarone e ne ha 14 da spendere entro il 19 di stasera. Ultima domanda, e tutti gli spettatori che hanno fatto l'abbonamento per Cassano, su cui non dico niente perché secondo me il Presidente ha fatto benissimo, mi stupisce che il Milan l'abbia preso per l'uomo che è, perché come calciatore niente da dire, ma come uomo ho dei dubbi, e che adesso si trovano con una squadra che non potrà mai più offrire lo spettacolo per la quale sono abbonati. La ringrazio, signor Garanzini, buongiorno e complimenti. Grazie a lei. Questo è l'abbonamento, sì, io sono abbastanza d'accordo con lei, cioè non a carico soltanto della Sampdoria, per carità, è a carico di un po' tutti, però io se fossi ancora un tifoso e se fossi ancora un frequentatore di stadi, certamente non mi abbonerei più, su questo non c'è il minimo dubbio, perché l'abbonamento non ha più senso, perché da un lato, come lei dice, tu ti abboni per andare a vedere una squadra che poi non sai quanto te la smantellano oggi col mercato, non dico sempre aperto, ma quasi. Dall'altro manca la certezza degli appuntamenti, perché non sai mai se giochi di domenica, di venerdì, di sabato, di qualche posticipo al lunedì, se giochi ora di pranzo, se giochi ora di cena. E quindi in questo io trovo che lei abbia ragione, anche per una serie di motivi e di spiegazioni. C'era un messaggio, eccolo qua, Guidolin, a proposito di Zamparini, che dice che Delio Rossi è un bravissimo allenatore durante la settimana, Guidolin diceva che Zamparini era un ottimo presidente dal martedì alla domenica. In effetti potrebbe anche darsi che questa battuta di oggi di Zamparini si sia ispirata a quella di un tempo di Guidolin, invece sul conto suo. Prima dei mercati, sì, c'è tempo ancora per Vittorio che ha chiamato da Mantova. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, volevo chiedere una cosa, ma secondo lei ma si può prendere, io sono milanista, le grottaglie, cioè dal mio punto di vista non è un rinforzo, ma non escono quegli addetti al lavoro vedere un giocatore scarso da uno buono? Cioè, come si fa? Si immagini lei Bonera, Papastadopoulos, le grottaglie insieme, cioè una cosa oddo anche magari, cioè, ma come si fa? Secondo lei non può peggiorare invece la situazione invece di migliorarla in difesa? Beh, insomma, io auguro a Milan che non giochino mai tutti e tre insieme quelli che lei ha nominato, perché soprattutto in Europa non può accadere, ma insomma credo che sarebbe abbastanza dura. D'altra parte, Vittorio, il calcio di oggi è questo. Abbiamo fatto un conto con Franco Piantarida stamane. Il Milan sinora ha usato in campionato 30 giocatori, esattamente come la Juventus, e 29 li ha usati l'Inter. Io, sinché calcio era calcio, secondo me si giocava in 16 più i primavera, diciamo 18, e arriviamo a 20, che così ci siamo rovinati. Arriviamo a 20 e poi hai una batteria di ragazzi da cominciare a far maturare in caso proprio di necessità. Ma il discorso qua ci porterebbe lontani, perché se le società dessero retta semplicemente ai preparatori atletici, agli allenatori e ai medici sportivi, le società farebbero almeno 20-30 giorni di raduno precampionato come si faceva un tempo, senza sottoporre i giocatori a sforzi prematuri. Questo sarebbe l'unico modo, o comunque il migliore, di preservarli da infortuni durante l'anno. Invece cosa vuole il sistema? Cosa pretende ormai? Il sistema pretende che i giocatori si svenino da non allenare per andare a giocare ridicole amichevoli estive che però fruttano quattrini. Poi si rompono in continuazione con il giubilo delle società, il giubilo insomma, magari con qualche virgoletta, ma non così poche. Sa perché? Perché almeno i procuratori possono continuare a piazzare gente. E oggi una rosa di Milan in questo momento è di 31 uomini, una rosa di Juventus è di 30, una rosa dell'Inter è di 29. Secondo lei ci guadagna il calcio, ci guadagna lo spettacolo, ci guadagnano gli abbonati, come diceva prima l'ascoltatore di Genova, o ci guadagnano i procuratori e tutto quel mondo che gira intorno? Torniamo con la curiosità di Bologna-Roma rinviata per neve, la curiosità che riguarda il recupero, non tanto il fatto che sia stata rinviata, sia stata sospesa dopo 16 minuti una partita che non doveva, che seriamente non avrebbe dovuto cominciare. Curiosità in che senso? Beh, perché con il regolamento che è in vigore da qualche tempo si ricomincerà non solo dal 16:30 del primo tempo, ma si ricomincerà con un calcio d'angolo a favore del Bologna, perché lì si è interrotta la partita, e questa mi sembra comunque una curiosità carina. Sulla data c'è ancora molta incertezza, perché il Bologna preferirebbe la prima utile possibile, cioè il 23 febbraio, mentre la Roma, che ha impegni europei, invece vorrebbe arrivare addirittura a marzo, se non ad aprile. In ogni caso, 16:30 del primo tempo, calcio d'angolo per il Bologna, e il Bologna senza i quattro squalificati di ieri, perché essendo la partita iniziata, gli indisponibili per ragioni regolamentari, non certo per ragioni sanitarie, che non c'erano ieri, torneranno a essere indisponibili da una parte e dall'altra, in questo caso da parte del Bologna, anche nella giornata di recupero. Giuseppe ha chiamato da Verona, buongiorno. Buongiorno. Congratulazioni per la competenza con cui si esprime sul nostro amato calcio. Io volevo fare un'analisi sul discorso di Del Neri. Siccome quando ero qui a Verona lo seguivo nel Chievo, e poi l'ho seguito anche quando ha allenato al di fuori, Atalanta, Sampdoria, eccetera, essendo stato un allenatore che ha avuto, diciamo così, una partenza a razzo in campionato con le sue squadre, un calo a gennaio, febbraio, e poi di nuovo una specie di volata finale fino a maggio. Non è che anche questo stia succedendo alla Juventus poi alla fine, visto che è un po' il suo sistema di preparazione, di concezione di... Ma insomma è un dato che è abbastanza ricorrente nella carriera del Neri. Io credo che insomma, quest'anno ci sia forse anche qualche altra spiegazione, non so dire se sia questo oppure se ci siano come minimo altre concause. Insomma, in questo momento del Neri la Juventus è senza attacco, no? Per cominciare, quindi vuol dire che per provare a far gol e quello è il problema minore, perché ci riescono sempre, o quasi sempre, tolta la partita di Coppa con la Roma, però comunque devono esporsi, insomma devono pensarci anche quelli che arrivano da dietro, sguarnendo una difesa che è molto più forte sulla carta di quanto non sia sul campo. Però appunto ci sono un sacco di infortunati, altri che hanno recuperato a stento e che forse non sono ancora al massimo della condizione. Credo che anche questo abbia il suo peso, al di là delle tradizioni o delle cabale che riguardano magari gli allenatori. Allenatori che sentiamo però, perché dato che ieri ci sono state due sconfitte indubbiamente pesanti, una quella della Juve e una quella del Palermo, cominciamo a sentire come Del Neri ha spiegato quella bianconera. Ma non abbiamo molte alternative in questo momento, la squadra aveva gli uomini contatti ed è chiaro che probabilmente la fatica di Coppa si fa da sentire, che era un po' più di attenzione, magari si potevano evitare quei tipi di gol, però non potevamo cambiarla proprio la partita, perché non avevamo proprio gli uomini per poterla variare, quindi hanno dovuto sacrificarsi sia Del Piero sia Martinez tutta la partita, e non è pensabile che possano tenere ritmi alti. Anche per Martinez veniva da un momento non molto felice a livello fisico. I problemi appunto a cui si faceva riferimento prima. Massimiliano ha chiamato da Brescia, buongiorno. Pronto, buongiorno. Volevo chiedere una cosa, ma secondo me è vero, la Juve manca di un attaccante, ma il problema più grosso secondo me è la difesa, che proprio fa acqua ogni fondo che una squadra prova, c'è da mettersi le mani nei capelli, perché appena arrivano da tutte le parti, sembra l'attacco di Forza Pace. Due laterali un poco migliori non c'erano da andare a prendere, posto che fare questa campagna acquisti, dove hanno comprato tutto ma non hanno comprato niente, e i migliori li hanno lasciati a parte. Trezeguet l'hanno venduto a 4 lire per prendere Toni e tenere a Mauri e Iaquinta, che non vanno neanche col cavallo davanti. No, io credo che adesso a Mauri temo che abbia ragione, o comunque ormai è un anno che è così. Su Iaquinta ci andrei un po' più pianino. L'idea di aver acquistato Toni avendo lasciato andare in estate Trezeguet resterà uno dei misteri della storia recente della Juventus. Lei ha chiamato da Brescia. Il Brescia ha appena ingaggiato Cristiano Zanetti, che arriva dalla Fiorentina e che ha sottoscritto un anno e mezzo di contratto fino al giugno 2012. Ricordo che il Brescia, dopo la debacle, perché non è la sconfitta quella di ieri in casa con il Chievo, ha richiamato, secondo una prassi in voga da qualche anno ormai, ha cambiato allenatore, ma dato che gli allenatori costano, esonerando Beretta, non ne ha preso un terzo, bensì ha riciclato quello che comunque fino a giugno avrebbe dovuto, lo dico volgarmente, ma è la verità, avrebbe dovuto pagare, e cioè Beppe Iachini. E questa è un'altra delle meraviglie del nostro calcio, di conio abbastanza recente, ripeto, e cioè tu licenzi un manager o un amministratore delegato, chiamalo come vuoi, tu licenzi un manager a novembre, perché a novembre è un incapace, e perché sei convinto che la tua azienda con questo manager sia destinata a fallire, o comunque a fallire l'obiettivo di stagione. Se però il secondo manager non funziona alla stessa maniera, non ne prendi un terzo, riprendi il primo che due mesi prima era un incapace. Questo non riguarda soltanto il Brescia, intendiamoci, è una pratica che ormai più o meno hanno già adottato tutti, e se non tutti quasi. Lorenzo, provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno a lei, chiedo scusa per la voce raffreddata. Sapesse la mia, sentisse la mia. Un parallelismo tra la partita di ieri della Juve e quella dell'Inter. Sullo 0-0 c'era un fallo netto su Krasić, cioè non fischiato. L'Inter ha avuto invece a favore un rigore per il Palermo non fischiato. Sull'1-0 per la Juve un'azione in contropiedi di Krasić, ancora una volta fermato con un fallo non fischiato, mentre l'Inter è stata fischiata una punizione che non c'era, sulla quale ha fatto il gol. Sicuramente la Juventus è in difficoltà, però forse c'è uno sbilanciamento eccessivo a sei anni da Calciopoli. Devo dire che la voce raffreddata era il meno, insomma, no? in questo intervento. Io credo che ieri sera l'arbitro Giannocchero a Torino abbia arbitrato molto male, ma molto male non tanto a danno dell'uno o dell'altro, ma molto male nel senso proprio della credibilità, dell'autorevolezza in campo, dei limiti tecnici abbastanza evidenti. E in un paio di occasioni almeno è stato pesantemente penalizzato Krasic, perché alla fine anche Del Neri, che da questo punto di vista è una persona di grande onestà culturale e sportiva, ha detto: beh, insomma, Krasic a questo punto il suo debito l'ha pagato, perché si è fatto tre giornate di squalifica per quel tuffo di Bologna, sarebbe ora che adesso quando i falli glieli fanno glieli fischiassero anche a favore. E direi che è abbastanza vero. Poi De Neri ha dimenticato che dopo quelle tre giornate Krasic almeno un altro tuffetto gratuito se l'era regalato, però è vero che questa è la destabilizzazione che gli arbitri avvertono quando vengono palesemente presi in giro. Non dico che diventino permalosi o che si vendichino, però ci pensano tre volte prima di fischiare a favore di uno che ti ha fregato, no? E ti ha fregato in maniera plateale. Questo è un genere di discorso. Sull'altro fronte io credo che il rigore per l'Inter ci fosse, credo invece che il fallo del 2-2 fosse uno dei tanti tuffi di Lucio, che secondo me, se c'è un Lucio o Lucio non ha importanza, se c'è un simulatore nel calcio, questo è certamente il centrale dell'Inter. Notate quante volte cade, grande e grosso com'è, notate quante volte finisce a terra e ci rimane, anche quando è lui a fare fallo. Però insomma, dire che quello sia stata una ragione per cui o dire come lei che la partita, o lasciare intendere che la partita è pilotata per un fallo fuori area, beh, insomma, credo che ci voglia una discreta, no? Una discreta voglia di pescare nel torbido. Daniele Pavia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo un suo parere sulla mia considerazione che faccio sull'Inter. Io parlo da tifoso. Ieri niente, ho visto la gara e a mio parere era che abbiamo fatto 80 minuti quasi nella loro metà campo, però avevo la sensazione che veramente quando andassero giù loro succedeva sempre qualcosa. Infatti due gol, palo, rigore, miracolo Giulio Cesar. Non riesco a trovare una spiegazione, perché poi se si affrontano squadre magari più forti, più blasonate del Palermo, diciamo in Champions League, se questi vanno giù magari una volta in più te ne fanno quattro di gol. Cioè non vedevo proprio una stabilità. Poi sono d'accordo con lei, Daniele, ma già ieri ne facevano quattro, bastava che Pastore non se ne mangiasse due, uno più grosso dell'altro, ed erano già quattro anche ieri e non c'era nessun Pazzini che tenesse. Infatti io credo che da una lettura in controluce della prestazione dell'Inter di ieri, che fa seguito a quella di Udine, non ci sia da ricavare grandi ottimismi, o meglio ci sia da ricavare l'ottimismo di avere di nuovo un grande centravanti che in questo momento e da qualche mese non è più Milito, e questo va nella casella dei più, diciamo. Nella casella dei meno c'è una vulnerabilità difensiva, ma tattica anche in mezzo al campo, che sinceramente non sarà facile da sistemare da qui in avanti, soprattutto se si continuano a perdere dei pezzi da un punto di vista muscolare, come è stato ieri per Cambiasso. Domani, con l'aiuto di Fabio Tavelli, parleremo poi anche di calcio estero, come ogni martedì, ma in particolare di calcio spagnolo, perché ho sotto gli occhi i titoli dei quotidiani spagnoli, ma madrileni in particolare, con il KO del Real enfatizzato ai massimi livelli e con la sensazione molto precisa che, pur mancando ancora 4 mesi di campionato, anche quest'anno la strada della Liga, insomma la Liga, abbia preso la strada per Barcellona dopo la sconfitta abbastanza clamorosa di ieri del Real Madrid sul campo dell'Osasuna, penultimo in classifica. Visto che, domanda Alberto da Vicenza, Bologna-Roma verrà disputata più avanti, e si partirà al 16° del primo tempo. Cosa succede nel caso di infortuni all'11 di base? Beh, Alberto, in caso di infortuni si cambia, evidentemente, perché se nel frattempo uno, toccando ferro, si rompe un piede, non è che va in campo ingessato perché aveva giocato i primi 16 minuti e deve giocare anche gli altri 74, no? Questo è evidente. Da un punto di vista... tutto quello che non è possibile fare è schierare giocatori che erano squalificati nella partita di ieri, perché la partita è iniziata, e quindi dal punto di vista, come dire, regolamentare, disciplinare, tutto deve essere come era ieri. Dal punto di vista delle scelte, evidentemente no. Marco da Pistoia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Io volevo fare una considerazione sull'Inter e sulla Juve. Sono un simpatizzante della Juventus. Sull'Inter direi che alla fine di tutti i mali, se non altro, Leonardo ha portato una ventata di buona sorte, perché comunque sia già in più di un'occasione, nonostante la squadra subisca eccetera, proprio alla fine riesce in qualche modo a contenere se non altro i danni. E poi l'individualità dei singoli, delle persone, la classe fa sì che quando hanno la palla non sbagliano, cioè portino il massimo dei frutti. Pazzini ieri è stato l'esempio, cosa che manca alla Juve. La Juventus, non avendo qualità, avendo solamente giocatori di quantità, avendo fatto una campagna acquisti, prendendo tanta buona volontà, gente come Pepe, a parte Quagliarella, poi il resto tutta gente che insomma ha quantità. Krasic, bravissimo, però gioca sempre al solito modo, ormai è causa del suo mal, perché che è un tuffatore, l'hanno conosciuto tutti gli arbitri, quindi non ci si può nemmeno attaccare a quello, perché insomma anche ieri sì, ha subito un fallo al limite dell'area, tutto quello che si vuole, però visto da dietro poteva essere anche tranquillamente lui che si buttava. Quindi, ecco, sì, soprattutto perché ha introdotto lui il sospetto, però lei ha messo l'accento su un problema oggettivo, indubbiamente. Cioè Pazzini adesso è stato valutato, mi pare, 18-19 milioni di euro, nel senso che 12 sono i quattrini e poi c'è Biabiani, insomma ci sono i buon peso, no? Come ormai è in tutte le trattative. È poco più di quello che la Juventus ha pagato per Martinez quest'estate, o sbaglio? C'è da capire questi fenomeni Marotta e Del Neri, che dovevano cambiare chissà cosa, qualche dubbio viene, no? Poi ci sta anche che la sbagli, per l'amor di Dio, hai comprato delle persone, si sono fortunate tutte, è tutto vero. Però gli infortuni alla Juventus è già 3 anni in fila che ci sono. Insomma, non lo so, c'è qualcosa alla base che sicuramente non torna. Qui un po' di mea culpa, un po' di esami di coscienza dovranno farli. Perché... Certo. Sono d'accordo con lei, Marco. Sono d'accordo anche con la regia, che mi segnala che mi stavo dimenticando la rubrica di Nicola Filippone. E quindi andiamo a sentire cosa è successo un 31 gennaio. Sembra ieri. 31 gennaio 1965. Clamoroso allo Zaccheria di Foggia. I padroni di casa riescono nell'impresa di battere la grande Inter per 3-2. I nerazzurri rimontano con Peiro e Suarez il doppio vantaggio dei pugliesi, ma si arrendono al secondo gol del centravanti Cosimo Nocera. L'impresa del Foggia farà guadagnare al vulcanico tecnico Lonzo Pugliese il soprannome di Mago di Turi, dal nome del suo paese d'origine in provincia di Bari. Pugliese era riuscito infatti a contrapporsi con successo al più blasonato Mago Herrera. La brillante stagione del Foggia, che chiuderà il campionato a metà classifica, farà approdare Pugliese alla guida della Roma, dove rimarrà per 3 stagioni. Beh, bello questo Amarcord. Bello e soprattutto ispirato da un ascoltatore di Foggia che ci ha scritto qualche giorno fa, ricordando, segnalando questa data e pregando di sensibilizzare Nicola Filippone sull'argomento. Detto fatto. Beretta mi fa notare invece Franco Piantanida è un po' un allenatore ad interim, perché nel 2009-2010 stette al Torino per 5 sole giornate nel corso della stagione. La stessa cosa gli accadde al PAO di Salonicco nel giugno dello stesso anno, e adesso con il Brescia ha giocato, insomma, è durato 7 giornate, sempre sempre a metà stagione. Andrea Como, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Io volevo intervenire sulla Juventus. Io, al contrario di tante cose critiche che si fanno, che si dicono sulla Juve, su Del Neri, sarei più ottimista. Qui il problema, secondo me, di fondo è uno. Manca la qualità, ed è palese la cosa. Però guardiamo la formazione di ieri. Ieri c'erano Aquilani, Felipe Melo, Marchisio, Del Piero e Bonucci, che sulla carta, ma anche di fatto, i piedi un po' ce li hanno. Non saranno i migliori in assoluto, però un minimo di tecnica ce l'hanno, e questo è secondo me abbastanza oggettivo. Il problema è che non corriamo, non abbiamo lucidità, quindi secondo me, oltre al fatto che si possono poi sbagliare gli acquisti, come diceva l'ascoltatore precedente, si possono sbagliare le scelte, qui c'è un problema serio di lucidità, di fiato. Io Aquilani non riesce a stoppare la palla e fare il passaggio, perché appena la stoppa c'è giocatori addosso. Questo significa che tu non hai l'anticipo sul pallone, non sei lucido, non puoi costruire nulla. Non lo so, non sono granché d'accordo, Andrea, con lei, anzi proprio pochino. Se c'è un problema che non mi sembra ci sia, è quello della preparazione atletica. Non vedo crolli, non vedo questo genere di handicap che invece lei sottolinea. Perlomeno non l'ho visto in queste giornate. Però Alessandro Rovigo, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io tempo fa mi permisi di paragonarlo in senso affettivo. Qui da noi diciamo il barba che è lo zio, no? Il barba che è lo zio. Barba Gigi, sì. Vabbè. Poi... Sì, il barba, ma nel senso che quando insomma siamo un po' in confusione, ci si rivolge al barba, si dice: barba, tu cosa ne pensi? Sai, un consiglio, un punto di riferimento. Al vecchio allora, zio sono... Rinco, va bene. No, per l'amore. Alessandro, dai che siamo alla fine. Allora, dica. Io sono interista, però volevo fare questa considerazione qua sulla Juve. Tante critiche, vada ingiuste, però la Juve, se guardiamo bene, ha 3 punti in meno dell'Inter. L'Inter è una partita a recuperare, ma deve andare a Firenze. Facciamo anche un punto, cioè non mi sembra, allora le cose sono due: o è troppo catastrofica la situazione della Juve, o forse anche noi interisti forse non valutiamo opportunamente. Ma mi sembra che l'Inter abbia fatto una stagione tragica fino adesso, no, in campionato, semplicemente tragica. Poi che ci sia stata una leggera ripresa nei primi tempi di Leonardo è un altro discorso, però un campionato con quella rosa, no, è un campionato abbastanza disastroso complessivamente, se no non avrebbero cambiato allenatore. Grazie anche a lei, grazie a Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanide in redazione, a domani.